TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sopralluogo questa mattina del capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano a Brazzano e Versa, le località dell'Isontino più colpite dall'eccezionale ondata di maltempo la notte tra domenica e lunedì scorsi. Successivamente nella sede della Protezione Civile di Palmanova è stato fatto il punto della situazione. Altro sopralluogo in regione, ma in una zona completamente diversa, l'area dell'ex ferriera di Trieste. Presente l'assessore regionale all'ambiente, Scoccimarro. La vicenda della cabinovia di Opicina con l'opposizione che attacca il sindaco dopo che lo stesso ha avvocato a sé la delega per la realizzazione dell'opera. Se il primo cittadino si fa carico di tutto il progetto, la stessa Forza Italia riconosce che dopo le sentenze del TAR la questione si sia complicata. Oggi l'Università Popolare di Trieste celebra i 125 anni di attività, i 60 anni di sostegno alle comunità italiane dell'Adriatico orientale, con una doppia cerimonia. Il primo appuntamento questa mattina nella sala del Consiglio Comunale, la seconda al ridotto del Teatro Verdi. All'area marina protetta di Miramare si sta lavorando per ripristinare la foresta marina formata da piante, alghe e molluschi, con un progetto innovativo che prevede anche l'utilizzo della stampante 3D. Il progetto si chiama Sirens. Nella prima settimana di dicembre torna a Trieste Farmer Artists, appuntamento dedicato alla celebrazione del cibo buono, che trasforma al mercato coperto in un crocevia di sapori, culture e sostenibilità. Le 12:31 minuti e 40 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e da Daniele Lettig, che condurranno anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 21 novembre. C'è stato un sopralluogo questa mattina da parte del capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, a Brazzano e a Versa, le località dell'Isontino più colpite dall'eccezionale ondata di maltempo la notte tra domenica e lunedì scorsi. Successivamente nella sede della Protezione Civile di Palmanova viene fatto il punto sulla situazione mentre si attende da un momento all'altro la formalizzazione dello stato di calamità nazionale. Inizia dalla frana di Brazzano di Coromons la ricognizione del capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, sui luoghi devastati dall'ondata di maltempo del 17 novembre. Qui l'incontro con uno degli sfollati della zona interdetta, Davide Di Segna. Non poteva tornare nella sua casa per parecchio tempo, quella notte è riuscito a mettere in salvo le sue due bambine. C'è vicinanza delle istituzioni e si stanno muovendo per cercarci degli alloggi ATER, ma la situazione è ancora grave, ci dice. Questa collina non aveva mai dato problemi, né era mai stata attenzionata per rischio prima, ha dichiarato Ciciliano. La frana nel 2017 non era in relazione con questa, era in un altro punto e fu messa in sicurezza, tanto che non ha dato problemi, le parole del capo dipartimento. Poi la delegazione, che comprende l'assessore regionale Riccardi, il direttore della Protezione Civile regionale Aristei, la viceministra dell'Ambiente Vania Gava, la senatrice Tubetti e il prefetto di Gorizia Ester Fedullo, si è spostata a Versa a constatare l'entità del disastro provocato dall'alluvione. Ancora si spala fango e si rimuovono gli arredi danneggiati. Oggi le utenze elettriche sono tutte alimentate. Ciciliano ha fatto i complimenti al Friuli Venezia Giulia per la grande volontà che ha e la capacità di reagire immediatamente. Ci ha detto che non saremo soli, indica una signora che si è soffermata per qualche minuto a parlare con Ciciliano. Nella sede della Protezione Civile di Palmanova, ultima tappa della visita, la Regione chiederà di formalizzare lo stato di emergenza nazionale, necessario per sbloccare fondi aggiuntivi e poter fornire sostegno al tessuto economico privato. Si parla di almeno 5 milioni di euro di stanziamento iniziale per le spese relative alla prima emergenza, ovvero quelle sostenute dal sistema di protezione civile regionale in questa prima settimana, ma il dispositivo economico complessivo è ancora tutto da valutare a seconda della quantificazione totale dei danni che arriverà più avanti. Tra poco Ciciliano e l'assessore Riccardi incontreranno la stampa per riferire dell'esito dell'incontro. Palmanova, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E questa mattina c'è stato un altro sopralluogo, ma in una zona completamente diversa, l'area della ex ferriera di Servola, a Trieste. Presente l'assessore regionale all'ambiente, Scoccimarro. Oggi un'altra giornata storica per l'area dell'ex ferriera di Trieste. È finito lo smantellamento del cumulo storico di rifiuti industriali sul cosiddetto Nasone, un'area di 2 ettari su cui erano stati accumulati 100.000 metri cubi di materiali che erano fermi lì da oltre 35 anni. Carlo Amoroso, direttore dei lavori già della piattaforma logistica delle demolizioni della ferriera e ora della messa in sicurezza permanente dell'area. Cosa avete fatto? Si è concretizzato qua a Trieste un'esperienza singolare in Italia. una montagna di rifiuti, 100.000 appunto metri cubi, è stata trattata e convertita a materiale buono per costituire il sottofondo delle fondazioni della rifunzionalizzazione di quest'area che oggi è destinata a logistica portuale. Una cosa brutta si è trasformato in un asset positivo, e questo incarnando pienamente i criteri più moderni della sostenibilità. Ecco, il risparmio per l'azienda è stato di circa 40 milioni di euro, è stata un'operazione dall'alto valore ambientale di riqualificazione industriale avvenuta in tempi relativamente brevi. Sì, sono teoricamente ragionevoli alla luce di tante altre esperienze in Italia. Nel 2020 è stata firmata l'accordo di programma, nel 2021 abbiamo cominciato le demolizioni, finite l'anno scorso, e con il 2024 è stato finalmente approvato il progetto generale della messa in sicurezza sui 23 ettari complessivi dell'area, con il decreto 39 del gennaio 2024, dopo 3 anni di discussione tra Roma e Trieste. E il progetto è oggi in attuazione attraverso 2 soggetti, uno che è Logistica Giuliana, il concessionario di quest'area, e l'altra parte verso la collina di Servola invece sarà attuata dall'autorità portuale per tramite del progetto 1951, la stazione di Nuova Servola. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Rimaniamo a Trieste per parlare ora della cabinovia, con l'opposizione che attacca il sindaco di piazza dopo che lo stesso ha avocato a sé la delega per la realizzazione dell'opera. E se il primo cittadino si fa carico di tutto il progetto, la stessa Forza Italia riconosce che, dopo le sentenze del TAR, la questione si sia complicata. La cabinovia è il capolinea del centrodestra, questo è il titolo della conferenza stampa convocata in seguito alla delibera di giunta per anticipare i finanziamenti della cabinovia con fondi comunali e alla revoca delle deleghe per il progetto evocate a sé dal sindaco di piazza. La delibera è stata votata da 6 componenti di giunta su 10. Molteplici le accuse lato centrosinistra, si è mentito alla cittadinanza, persi i fondi PNRR, saranno tagliate altre opere pubbliche, ma soprattutto la denuncia di una vera e propria crisi nei ranghi di chi governa. Giorgio Scrip, consigliere lista Punto Franco Trieste. Chiediamo davvero a questa amministrazione comunale di fermarsi, di in qualche maniera rivalutare il proprio operato e, se necessario, anche chiedere di tornare al voto per dare una nuova linea, una nuova programmazione a questa città. L'affondo più marcato dell'opposizione è il lato finanziario dei 30 milioni che porterebbe uno squilibrio nel bilancio di previsione 2026. Rimanda la questione al mittente il capogruppo della Lega Bernobic, il finanziamento risulta coperto dal Ministero e la nuova delega del sindaco dà più peso politico. Il consigliere sulla questione cabinovia, arrivati a questo punto, non nega che ci siano visioni leggermente diverse tra i partiti di maggioranza. Sosteniamo la decisione del sindaco che avrà più peso politico alla luce del quadro post-sentenza TAR, che hanno annullato aspetti fondamentali di Vinca e Vas, avendo più capacità di trattazione politica. Così il capogruppo di Forza Italia, Alberto Polacco. Ci sono delle questioni tecnico-giuridiche, ma come l'ha detto anche il nostro Presidente della Regione Federica, con grande equilibrio, che vanno in questo momento soppesate. Al momento le scelte dell'amministrazione, se impugnare le sentenze del TAR o meno, non sono ancora maturate. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ryanair ha annunciato oggi una crescita record per l'aeroporto di Trieste, con 2 aeromobili basati per la prima volta in assoluto durante la stagione invernale, che rappresentano un investimento di 200 milioni di dollari e spingono la crescita del traffico del 50% fino a superare 1 milione di passeggeri annui. L'operativo per l'inverno 2025 di Ryanair per l'aeroporto di Ronchi prevede 2 aeromobili basate rispetto all'unico del 2024, 16 rotte, inclusa la nuova da e per Lamezia Terme, e oltre 800 posti di lavoro supportati nella regione Friuli Venezia Giulia. 79esima edizione delle giornate mediche triestine dedicate quest'anno al tema del paziente guarito da tumore in età pediatrica. L'evento, che è promosso dall'Associazione Medica Triestina, si svolge nelle giornate di oggi e domani. Alle 18 di oggi, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione, cerimonia inaugurale e la Lectio Magistralis del professor Mauro Giacca sui farmaci ARNA. Domani invece, nell'Aula Magna del Polo Didattico di Cattinara, previsti interventi specialistici su cardiologia, endocrinologia, psichiatria, ginecologia e urologia. L'obiettivo è quello di approfondire epidemiologia, complicanze tardive e modelli di follow-up dei pazienti guariti da tumore in età pediatrica, oggi sempre più numerosi grazie ai progressi terapeutici. contribuire a colpire i meccanismi alla base di tumori e infiammazioni croniche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie basate sugli oligonucleotidi, brevi sequenze geniche degli acidi desossiribonucleico, DNA, e ribonucleico, RNA. È l'obiettivo del progetto internazionale OnTract, che impegnerà l'Università di Udine per 4 anni con altri 15 partner europei, tra cui 10 atenei, un ospedale, 4 aziende e un ente no profit. Il consorzio ha ottenuto un finanziamento di 4.400.000 euro dal programma europeo Horizon Marie Curie. L'Università Popolare di Trieste celebra oggi 125 anni di attività e 60 anni di sostegno alle comunità italiane dell'Adriatico orientale con una doppia cerimonia. Il primo appuntamento questa mattina nella sala del Consiglio Comunale, la seconda cerimonia al ridotto del Teatro Verdi sarà dedicata alla collaborazione con le comunità italiane in Slovenia, Croazia, Montenegro e Serbia. L'Università Popolare di Trieste celebra i 125 anni di attività e i 60 di sostegno alle comunità dei paesi dell'Adriatico orientale con una cerimonia nell'aula consiliare del Comune di Trieste. Conferita la medaglia del Presidente della Repubblica ad un sodalizio che negli anni ha supportato una storia di cultura, identità e impegno civile. Il Presidente Edvino Jerian ha sottolineato nel suo intervento il valore morale per la città e il territorio dell'ente, che ha guardato anche oltre confine per difendere e diffondere la cultura italiana non solo nelle classi più agiate, ma anche in quelle che avrebbero avuto difficoltà ad accedere ad una situazione di cultura più alta. Un modello che si è adeguato ai tempi, consolidando la cultura come elemento di scelta e di decisione nella vita politica ed economica della società. Nella prolusione ufficiale, il professor Stefano Pilotto, docente di relazioni internazionali all'Ateneo Triestino, ha rimarcato come l'Università Popolare sia stata un'istituzione importante per lo sviluppo della cultura a Trieste, anche nei territori che erano oggetto di minacce dell'identità e della cultura italiana. Alla cerimonia erano presenti a nome del governo la sottosegretaria alle finanze Sandra Savino, il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha ringraziato l'università per la collaborazione anche con le altre istituzioni dell'area adriatica, e il presidente del Consiglio Comunale di Trieste Francesco Panteca. Proseguiranno nel pomeriggio a ridotto del Teatro Verdi le celebrazioni con una cerimonia dedicata ai 60 anni della collaborazione con l'Unione Italiana e le comunità italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 12 e quasi 43 minuti, siamo al tempo, cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 7 gradi e mezzo, con vento di bora a 48 km orari, con raffiche a 83 km orari. Gorizia e Pordenone 7 gradi e mezzo, Udine 6 e mezzo, a Tolmezzo 3 gradi, a Tarvisio e Forni di Sopra 0 gradi, a Piancavallo meno 1 grado e mezzo, a Sappada meno 3 gradi, sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari meno 7 gradi, sulla costa a Grado e Lignano 8 gradi. E ora sentiamo quale sarà il tempo previsto nel weekend e le tendenze per l'inizio della prossima settimana con Livio Stefanutto, previsore dell'Osmer ARPA. Il fronte di questa notte ha portato precipitazioni sulla regione, genere moderate, localmente più abbondanti in montagna, dove è caduta la prima neve diffusa della stagione, con una ventina di centimetri di neve in quota, un 5-10 centimetri di neve a fondo valle fino ai 400-500 metri circa inizialmente, poi risalita. Oggi il tempo migliorerà lentamente, rimarrà comunque nuvoloso, continuerà a soffiare bora con raffiche fino a 80-90 km all'ora a Trieste. Domani cielo coperto al mattino con raffiche di bora forse anche oltre i 100 km all'ora a Trieste, poi in calo nel corso del pomeriggio quando si apriranno ampie schiarite specialmente sulle zone occidentali e poi prossimamente anche verso est. Domenica una bella giornata, cielo sereno ovunque in regione, al mattino un po' di borino a Trieste solo le primissime ore che poi cesserà nel corso della mattinata. Temperature decisamente basse domenica mattina, con valori anche inferiori ai meno 10, meno 12 in montagna, valori attorno ai meno 3, meno 4, con gelate diffuse in pianura. Lunedì invece arriverà un altro fronte, di nuovo, quindi cielo di nuovo coperto, con di nuovo altre piogge e altre nevicate in montagna. All'area marina protetta di Miramare si sta lavorando per ripristinare la foresta marina formata da piante e alghe e molluschi con un progetto innovativo che prevede anche l'utilizzo della stampante 3D. Il progetto si chiama Sirens ed è stato presentato a Buongiorno Regione. Il mare custodisce sui fondali le foreste marine che rappresentano una ricchezza da tutelare perché minacciata dalla crisi climatica, dall'eccessivo sfruttamento e dall'inquinamento. Un ecosistema di diversità come quello della riserva naturale di Miramare, dove il restauro si sta facendo anche con l'aiuto delle stampanti 3D che producono con materiali biodegradabili la base dalla quale cresceranno le nuove piante. Un progetto innovativo eseguito nel Golfo di Trieste in collaborazione con la cooperativa Shoreline, che ha un obiettivo molto specifico, come spiega la biologa marina e subacquea Elena Milanesi. Ripristinare uno degli ecosistemi più importanti ma allo stesso tempo più fragili, che è quello delle foreste marine, quindi formate da alghe, cistoseira e fanerogame marine cimodocea, che è la cugina della più nota Posidonia oceanica. E lo facciamo attraverso la stampa 3D di supporti stampati con materiale innovativo, sostenibile, e farlo nella maniera però più efficiente e funzionale possibile, quindi è un progetto molto ambizioso. L'impatto del cambiamento climatico si fa sentire forte anche sul Golfo di Trieste. È stato pubblicato uno studio recente dell'OGS dell'Università di Trieste. Abbiamo perso quasi fino al 90% in un arco temporale di soli 4 anni. Quindi è fondamentale, alla luce di questi risultati, proprio andare ad effettuare un restauro ecologico, proprio per ripristinare la funzionalità ecosistemica e permettere alle specie che vogliamo reimpiantare, quindi piante in questo caso, proprio di colonizzare il substrato e riprodursi autonomamente. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. A oggi sono 6 gli incontri tecnici collettivi sul campo, a cui vanno aggiunti 2 eventi formativi e una visita a un impianto agrivoltaico avanzato in Umbria che APE Friuli Venezia Giulia ha organizzato coinvolgendo oltre 170 aziende interessate ad approfondire come concretizzare la transizione energetica e in agricoltura. Al più recente, tenutosi a Pordenone, hanno partecipato una 30 tra imprenditori agricoli, agronomi e professionisti, intervenendo al convegno Transizione energetica per le aziende agricole tra efficienza e rinnovabili, organizzato nell'ambito del programma SISSAR 2025 con il supporto di ERSA. Nella prima settimana di dicembre arriva a Trieste la 7ª edizione di Farmer e Artists, dedicata alla celebrazione del cibo buono, che nel weekend del 6 e 7 dicembre trasformerà il mercato coperto in un crocevia di sapori, culture e sostenibilità con 50 aziende agricole e vinicole del territorio. Un evento che quest'anno sarà preceduto da 3 anteprime con cene gourmet. A organizzarlo il Gal Carso. Abbiamo sentito il presidente David Pizziga. L'iniziativa propone la scoperta del buon cibo. Abbiamo iniziato con questo evento nel 19 e ci siamo stabiliti dei target: portare del cibo buono alla popolazione delle città, il cibo buono dei nostri territori, che diciamo è un incontro tra minoranze, come lo è quella friulana in Friuli, l'Italia nel mondo e quant'altro. Quindi anche questi nostri produttori, che sono eroici, che difendono la natura e hanno dei prodotti particolari, vanno messi in vetrina. In questo caso abbiamo creato finalmente un evento che dura per tutta la settimana, al quale abbiamo incastonato delle cene gourmet proprio per fare assaggiare alle persone l'impiego di queste pietanze, perché oggi si tende a standardizzare un po' tutto, anche il cibo che noi possiamo comprare nei supermercati è abbastanza standardizzato, ma in questo caso si tratta di un cibo molto particolare. L'abbiamo ideata un po' come fosse un'applicazione di un telefono, però è pratica, nella quale una persona con anche dei bambini, ci sono dei corsi dai 6 ai 10 anni per i più piccoli, che sono dediti a scoprire la sensorialità di questi prodotti che stiamo un po' perdendo per strada. Ci siamo fatti aiutare da Slow Food e da Campagna Amica in tutto questo, e questo intento di questa settimana o di questi eventi gourmet è proprio per far vedere alle persone come si possono impiegare questi prodotti che sono un po' particolari e che stanno scomparendo, e che è giusto che un ente come il nostro, che difende i prodotti particolari, tipici, territoriali, possa ovviamente promuovere. La caratteristica di questo evento è che i produttori pagano praticamente niente per essere presenti, ma finalmente questa settimana abbiamo una partecipazione di ben più di 50 produttori. La Regione per il Friuli Venezia Giulia ha destinato circa 3 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale interessati dalla 20ª tappa del Giro d'Italia 2026. Questi stanziamenti vanno a favore di 9 comuni del Friuli Venezia Giulia, da Gemona a Piancavallo, proprio per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante, commentando l'approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito provvedimento che autorizza l'erogazione dei contributi per la sistemazione delle strade del Friuli Venezia Giulia proprio per il passaggio della Corsa Rosa. Tornano a Trieste le giornate del premio Lucchetta. Da oggi a domenica incontri, tavole rotonde e testimonianze dal giornalismo nazionale e internazionale. Al centro, come sempre, le storie di chi racconta infanzia negata, violazioni dei diritti e crisi umanitarie. L'iniziativa si svolge nella settimana della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, ribadendo la missione civile della fondazione dedicata ai giornalisti Lucchetta, Ota, D'Angelo e Hrovatin. L'apertura alle 17.30 al Teatro Miela con i saluti istituzionali, la presentazione dello speciale Rai, Bambini senza nome e il premio speciale 2025 assegnato a Francesca Albanese, seguito da un dibattito sui diritti dei bambini palestinesi. La Tre Giorni proseguirà poi con panel su rotta balcanica, sfruttamento e schiavitù contemporanee, emergenza Gaza, orfani di guerra e il peso psicologico sui giovani nei paesi più competitivi. Domenica poi la chiusura con la rassegna stampa di Marco da Milano, un focus su minori e sistema penale e un approfondimento dedicato alla crisi del Myanmar, i premi consegnati ai vincitori all'inizio di ciascun panel. Sfida internazionale di cyber security al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro, dove da oggi a domenica si svolge la finale della terza edizione di Snake CTF, la gara di hacking etico ideata dall'associazione Madrax Team dell'Università di Udine. In competizione 90 giovani hacker etici suddivisi in 15 squadre, selezionati tra oltre 500 team partecipanti alla fase online in arrivo da 10 paesi. Atmosfera informatica, musica techno, luci basse, qualcuno indossa felpa e cappuccio. Al Bella Italia Village di Lignano sono arrivati gli hacker etici, quelli buoni, una novantina di giovani talenti della sicurezza informatica per la sfida Snake CTF. Al contest internazionale partecipano 15 squadre provenienti da 10 paesi europei, americani e asiatici. Parliamo di Corea del Sud e Kazakistan. È organizzato da Madrax APS, la squadra di studenti laureati all'Università di Udine. Un modo per conoscere il mondo degli hacker etici, quelli che difendono i sistemi informatici dai cyberattacchi dei black hat hacker, criminali con l'obiettivo di rubare dati o denaro. In mezzo ci sono gli hacker grigi, entrano nel sistema e offrono aiuto al titolare dei dati, anche questo è un reato. Luca Campa è uno degli organizzatori della gara. L'evento è diviso in due fasi principali, una CTF principale in cui i ragazzi si sfidano in una serie di prove di sicurezza informatica e devono cercare di trovare le vulnerabilità e sfruttarle. È una seconda fase un po' più divertente, diciamo, dal punto di vista pratico, perché dovranno andare in giro per Lignano e risolvere una serie di sfide come quelle che stanno facendo anche oggi all'interno dell'evento, all'interno della sede, all'interno dell'auditorium delle Fa Village, ma all'interno della città di Lignano. E quindi in questo modo facciamo conoscere la città di Lignano, comunque una città friulana, a tutti i partecipanti che provengono da tutte le nazioni del mondo. Abbiamo gente dal Giappone, dal Kazakistan, quindi è divertente. Ci fai un identikit dell'hacker? Allora, oggi all'interno della sala abbiamo gente vestita con la felpa, col cappuccio nero, luce soffusa all'interno di una stanza, computer aperto. Questo è il tipico identikit dell'hacker, che in realtà non è propriamente vero. Poi se andiamo a vedere chi sono gli hacker che veramente sfruttano le vulnerabilità, non è sempre vero che sono i tizi col cappuccio, la felpa nera, eccetera, chiusi all'interno di una stanza, ma possono essere persone tranquillamente che incontriamo per strada. Il contrario del tipico identikit, quindi gente che va in palestra, che si allena continuamente, gente che è molto socievole, ma che poi, sotto sotto, potrebbe anche far danni, diciamo. Lignano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una serie di grandi mostre in via di allestimento per celebrare Pordenone, capitale della cultura 2027. Pordenone inaugura una nuova stagione di mostre fotografiche in un percorso avviato lo scorso anno e che guarda il 2027. La prima è dedicata al fotografo francese Robert Doisneau. Oltre 100 fotografie esposte in Galleria Bertoia fino al 6 aprile che ripercorrono la sua carriera con gli scatti più e meno noti. Il curatore del progetto, Marco Minuz. Lo spirito è quello di costruire una stagione fotografica che cerchi di portare Pordenone al centro di un'attività espressiva legata appunto al mezzo fotografico. Abbiamo raccolto un grande maestro della fotografia internazionale, Doisneau, che non ha bisogno di presentazioni, e lo abbiamo associato a 3 grandi fotografi internazionali contemporanei, proprio per attivare questo dialogo tra passato e presente, coinvolgendo vari spazi, Galleria d'Arte Bertoia e il Museo Civico d'Arte, questo nuovo spazio industriale che è stato riconvertito per una funzione culturale che si chiama Mercati Culturali Pordenone. Negli spazi del Museo Civico d'Arte Ricchieri altri 2 progetti dedicati ai contemporanei, il fotografo giapponese Seichi Furuya e la britannica Olivia Arthur. Dal 14 febbraio sarà invece ospitata l'opera della fotografa austriaca Stephanie Mosshammer. L'assessore alla cultura Alberto Parigi. Preparare il terreno proprio in vista del 2027, capitale italiana della cultura non si esaurirà solo in quell'anno, ma c'è un prima, ci sarà un durante che sarà il clou e ci sarà anche un dopo. Ovviamente l'altro obiettivo è attrarre sempre più gente e fare un salto ulteriore, un livello di mostra ancora più alto. L'obiettivo finale è di fare di Pordenone un punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la cultura in generale, ma in questo caso per quanto riguarda la fotografia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È considerato uno dei più influenti cantautori del secondo Novecento, ha attraversato oltre 6 decenni di musica lasciando un'impronta indelebile sul folk, sul rock e sul grunge, dall'esperienza con i Buffalo Springfield ai capolavori solisti fino alla collaborazione con Crosby, Stills e Nash. Stiamo parlando di Neil Young, il cui Love Earth Tour 2026 farà solo 2 tappe in Italia, una delle quali il 16 luglio 2026 a Villa Manina a Codroipo. Si tratta dell'unica data nel nord Italia inserita nel programma di Go to Pordenone and Friends, che sarà anche la più vicina Cina per i fan austriaci, sloveni e croati. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di venerdì 28 novembre. Un incontro sulle radici e i rapporti che legano Albania e Italia lo organizza a Trieste l'associazione Arberia con la partecipazione di Peter Stocca, albanologo e direttore della biblioteca di Koper, della scrittrice e fotografa Rosetta Toci, del pianista Hermes Dugulin Stratti e del giornalista della TGR Friuli Venezia Giulia, il nostro collega Antonio Cagliazza. Appuntamento a Palazzo Gopcevic alle 17.30. Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Venezia Giulia organizza a Gorizia, a Palazzo De Bassa, una giornata dedicata al ruolo delle donne nella cultura transfrontaliera, nell'ambito dell'anno che vede Gorizia e Nova Gorizia capitali europee della cultura. L'incontro dalle 14.30 alle 17.45. Il Club Alpinistico Triestino celebra gli 80 anni di attività con una conferenza nella sala Tessitori di Piazza Oberdan a Trieste alle 18. L'incontro ripercorre la storia del sodalizio impegnato da decenni in attività alpinistiche, speleologiche, scientifiche e culturali. La Compagnia di Arti e Mestieri porta in scena Da Uomo a Uomo, lo spettacolo di Bruna Braidotti dedicato alla violenza maschile contro le donne. Le rappresentazioni oggi a Cavazzo Carnico all'ex Latteria alle 20.45, domani a Udine nella Sala Comelli alla stessa ora. Max Pisu porta in scena al Candoni di Tolmezzo alle 20.45 Sinceramente Bugiardi insieme al figlio Matteo, commedia di Alan Hepburn diretta da Marco Rampoldi con Valeria Loverso e Roberta Petrozzi. A Udine la 19ª edizione del Premio Nazionale delle Arti organizzato dal Conservatorio Tomadini. Dalle 15 alle 17 sono previste le semifinali dei 7 candidati alla prova di canto lirico. Le prove finali domani. Domenica invece riflettori sul galà conclusivo al Teatro Giovanni da Udine aperto alla città. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio che è stata redatta da Daniele Lettig e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle ore 15. A tutti voi l'augurio di un buon weekend. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.